L'individuo si è molto indebolito, il suo pensiero si è impoverito e appiattito. D'altro canto, le emozioni, non potendo essere completamente eliminate, debbono avere un'esistenza totalmente separata dall'aspetto intellettuale della personalità. Il risultato è il sentimentalismo a buon mercato e insincero con cui i film e le canzonette nutrono milioni di consumatori emotivamente affamati. Buonasera a tutti. Dunque, io sono qui per protestare ufficialmente contro tutti i luoghi comuni con i quali si usa dipingere il popolo milanese, o propriamente detto il popolo meneghino. Va bene? Oh, dico, si fa presto a dire che qui si pensa soltanto al lavoro, al lavoro e ai danè, ai dindi, ai soldi. Si fa presto a dire che siamo un popolo materialista, che il cuore è soltanto nel sud, che le canzoni si cantano soltanto nel mezzogiorno. Dico, ma cosa credono i napoletani? Di aver inventato loro le canzoni? Ma non lo sanno che qui a Milano noi abbiamo delle canzoni che quando uno le canta tutto il mondo scatta in piedi? Tipo per esempio quella lì che fa, scelgo una a caso, Oh mia bella Madonnina, sono canzoni che toccano, oh, scusa, un po' di soldi, dicevo sono canzoni che toccano, sì signori, a me mi fa ridere quello lì, quello con i capelli lunghi, i baffetti lì, quello del volare, quando afferma che le canzoni si possono fare soltanto in dialetto siciliano. Ma perché? Ma perché dico io? Ma il milanese è soltanto per i metalmeccanici. Ma si informi il signor, quello lì, quel volare lì, si informi che qui a Milano abbiamo di quelle canzoni che hanno girato il mondo. Tanto per citarne uno a caso, quella lì che fa, oh mia bella Madonnina, che bella canzone questa qui. Oh, sì. E poi io non capisco quelli che dicono che a Milano non si possono creare le canzoni perché c'è la nebbia e che per creare le canzoni ci vuole il sole. Ma chi lo dice? Se noi a Milano siamo pieni di belle canzoni, di tipo per esempio quella lì, tanto per citarne una, quella che fa oh mia bella Madonnina che te brilla de lontano. Beh, adesso ho preso un pochino una nota alta, comunque quella lì è fior di una bella canzone. Oh, a Milano cantano tutti, persino le lavoratrici, bravo, le lavoratrici di casa privata, anche loro. Sentite questa qui, Sciola, perché lei non canta una delle nostre belle canzoni milanesi? Signoria, a parte lo fatto che io sto abruzzese, provateci un po' che voi a cantare questo coso in mano qua. C'ha ragione, ma quella cosa lì la sbatti sulla finestra. Vabbè. Mi pare, mi semplice di così. Uè, l'ha sbattuto sulla finestra sul serio quella lì. Moplen. Oggi ci vuole Moplen. I cestelli di Moplen sono maneggevoli, leggerissimi, di lunga durata. Moplen ha una superficie lucida e brillante. Non fa rumore e pur essendo elastico non si flette. Non si deforma a contatto con l'acqua bollente perché resiste al calore fino a 140 gradi. Moplen! Con questo marchio nei migliori negozi. Ed ora, in casa vostra! Moplen Montecatini. Thank you. Sono un pubblicitario. Ebbene sì, inquino l'universo. Io sono quello che vi vende tutta quella merda. Quello che vi fa sognare cose che non avrete mai. Cielo sempre blu. Ragazze sempre belle. Una felicità perfetta, ritoccata in Photoshop. Immagini leccate, musiche nel vento. Quando a forza di risparmi voi riuscirete a pagarvi l'auto dei vostri sogni, quella che ho lanciato nella mia ultima campagna, io l'avrò già fatta passare di moda. Sarò già 3 tendenze più avanti, riuscendo così a farvi sentire sempre insoddisfatti. Il glamour è il paese dove non si arriva mai. Io vi drogo di novità, e il vantaggio della novità è che non resta mai nuova. C'è sempre una novità più nuova che fa invecchiare la precedente. Farvi sbavare è la mia missione. Nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità, perché la gente felice non consuma. La vostra sofferenza dopa il commercio. Nel nostro gergo l'abbiamo battezzata frustrazione post-acquisto. Non potete stare senza un prodotto, ma non appena lo possedete dovete averne un altro. L'edonismo non è un umanismo, è un cash flow. Il suo motto? Spendo dunque sono. Ma per creare bisogni si devono stimolare la gelosia, il dolore, l'insoddisfazione. Sono queste le mie munizioni e il mio bersaglio siete voi. Siete i prodotti di un'epoca. No, è troppo facile incriminare l'epoca. Siete dei prodotti e basta. Visto che la mondializzazione non si interessa più agli uomini, dovevate diventare dei prodotti perché la società si interessasse a voi. Il capitalismo trasforma gli esseri umani in yogurt deperibili, drogati di spettacolo, cioè addestrati ad annientare il prossimo. Per farvi fuori basterà trascinare il vostro umano sul mondo, in un cestino, poi selezionare svuota cestino in un altro. Il computer allora chiederà: eliminare in modo permanente? Sì. No. E se proprio vi tocca essere un prodotto, vorreste almeno avere un nome impronunciabile, complicato, difficile da memorizzare. Un nome da droga pesante, color cacca. Vorreste essere un acido potentissimo, in grado di sciogliere un dente in un'ora. Un liquido troppo zuccherato, dal gusto bizzarro. E nonostante tutti questi difetti evidenti, restare la marca più conosciuta sulla Terra. Vorreste essere una lattina di Coca-Cola avvelenata. Questa volta avete l'impressione di essere in un film di David Lynch. Dietro un'apparenza civile e sorridente si nasconde una dimensione oscura, una violenza segreta, una follia distruttrice che vi obbliga a un sorriso ancora più largo. Buonasera a tutti. Benvenuti. Siamo qui stasera per proporvi un progetto che si chiama Frame B, che vuoi o non vuoi in qualche modo sta lentamente prendendo forma. E per dare forma a Frame B ci siamo posti tre premesse innanzitutto. La prima coinvolge una riflessione sulle varie forme di comunicazione nell'arte, come e se queste possano effettivamente intrecciarsi e quanto riescano a cogliere il punto. Iniziamo parlando di linguaggi. Il linguaggio della musica, per esempio, è davvero in grado di inviare un pensiero efficacemente, oggi? E quello del cinema? Il teatro? In ambito performativo siamo spesso posti di fronte a un fruitore. Ma lui, con il linguaggio che gli offro oggi, nel 2021, che cosa coglie? E sommato al tema dei linguaggi, un'altra premessa consiste nel delimitare tra i pensieri il concetto di libertà nella società attuale. Questa parola libertà, no? Il testo che vi ho letto prima di iniziare il primo video era di Eric Fromm, di un sociologo ebreo che ha scritto questo libro nel 1941. E questa parola libertà, per quanto mi riguarda, è sempre stata una parola abbastanza inafferrabile nella mia mente. Ho provato a dar forma a questo concetto spesso, volontariamente o meno. Che cosa posso fare? Quanto sia chiaro nella mia testa il poter agire effettivamente liberamente. E durante gli ultimi mesi della mia vita ho potuto afferrare un vago significato a ciò che definisco libertà nella contemporaneità. Trovare sottili libertà concrete, personali, piccole, che possono essere di grande peso sulla nostra stabilità. E cosa significa trovare queste personali libertà? Per me significa potere d'azione. Significa poter prendere e andare lontano, ovunque si voglia, senza per forza spostarsi. Queste piccole grandi libertà fanno esplodere il principio creativo che ognuno di noi porta con sé, quasi sempre assopito. È l'idea di prendere in mano il proprio tempo, senza sprecarlo e senza sentirsi in colpa. Quindi significa soddisfare una logica dal valore comunitario, di attenzione ed inclusione, e quindi significa accogliere il presente. La terza premessa è questa. Dunque, per raccontare questa storia mi rivolgo soprattutto alle persone della mia generazione, coloro i quali si stanno per sobbarcare un presente futuro che con buona probabilità assumerà dimensioni drammatiche. E così ho raccolto una, diciamo, un'analisi sulla contemporaneità vaga, e cioè l'uomo occidentale del 2021 che, volente o nolente, scopre alcuni più o meno profondi meccanismi dell'epoca odierna, e non quella di fine XX secolo, ribadisco, quella di oggi. E quindi ultracapitalismo sopra ogni valore, consumismo, intensivismo delle produzioni, populismi, individualismo esasperato dei social network, deforestazione, clima in collasso, ecosistemi devastati, estinzioni di animali e per ultimo pandemie. E da questo straniamento generazionale, questa angoscia rintracciabile in gran parte della letteratura filosofica delle ultime decadi, sembrano esserci poche vie d'uscita. Il nichilismo si fa spazio in varie forme, e non solo nei giovani che soffrono di hikikomori. E la mia storia, dunque, cercando di evitare la critica fine a se stessa, molto difficile, vuole sì indagare, ma cercare e tentare di rintracciare quali e se ci siano vie di superamento. Non ho nessuna pretesa, solo qualche idea vaga, proattiva. Ho pensato quindi di creare del materiale multidisciplinare con qualche proposito. E ora, qualche consiglio per gli acquisti. Elisir San Marzano Borsci. Torna a sorprenderti. Attiva come la tua vita. G-Active. Acqua più sali minerali, vitamine e poche calorie. Per reintegrare ciò che perdi durante l'attività fisica. G-Active. Water made active. Oh my God! Quando i miei capelli hanno una giornata sì, il mondo diventa il mio palcoscenico. Mi sento la versione migliore di me stessa. Viva tutto volume! I balsami oro Pantene con formula Pro V trasformano i tuoi capelli. Oh my God! E tu? Vivi il potere dei capelli Pantene. Sei sicuro? Questo comportamento aumenta il rischio di farti fare un incidente. Per cosa poi? Risponderai distrattamente, lei penserà che la vuoi lasciare. Allora ci sarà Marco a consolarla, il tizio bruttino del corso di Pilates, te lo ricordi? Cadrai in depressione, ti scriverai una chat dove ti cloneranno la carta di credito. Distrutto ti arruolerai nella regione straniera. Come si è messi col francese? Voilà! Dolce, croccante, colore unico. Dai gusto alla tua estate. Perla nera, una perla di dolcezza. Guardate cosa c'è là fuori. C'è la cedrata Tassoni sulla spiaggia. Ma chi c'è con lei? Fior di sambuco, mirto in fiore e pesca amara. Quello che l'uomo non dice, il subconscio esprime. La sete con Tassoni. Bibite. Sono un consumatore. Mi piace comprare, vero? Io compro tutto. Ho appena comprato un cassetto per custodire le mie repressioni. Stavo pensando di comprarne un altro più spazioso, perché questo sì è carino, ma voglio dire, l'ho pagato poco. Me ne serve uno più grande. Ho sentito che ne vendono uno in quel negozio enorme. Sì, dai, quello dove trovi tutto. È davvero fornito quel posto. E là in fondo al viale, prendo l'auto e sono lì. Ha davvero tutto ciò che voglio. Posso trovare tutto ciò che mi serve. Ha tutto quello di cui ho bisogno. Deve costare poco, altrimenti mica lo compro. Deve essere comodo, portatile, facile di utilizzo. Deve essere bello. Un bel packaging, una bella scritta colorata. Una confezione con quella grafica nuova che mi piace proprio tanto. L'ho visto in TV. Mi è comparso tra un post e un altro di Facebook. L'ho scoperto guardando i cartelloni pubblicitari lungo i viali. Me l'ha detto quel mio amico che, si sa, ne sa pacchi di queste cose. Sono stato in un centro commerciale fuori città. L'hanno appena costruito. Ha 7 piani e non finisce mai. Sono stato lì con la famiglia. Una grande giornata di shopping. Straordinario. Vedi quel coso che mi dà la sensazione di avere una casa più bella? L'ho comprato a meno euro. È un oggetto straordinario. Ho visto l'annuncio, c'era uno sconto, costava pochissimo, l'ho preso subito. Quell'altro, quello che ti fa avere un'automobile più decente, pensa, costava la metà, ne avevo proprio bisogno. Non lo vuoi anche tu un oggetto che ti fa la faccia più pulita? E quello per i piedi più sani? Se lo prendi, ne prendi due e la tua vita migliorerà, garantito. Costa poco, è perfetto. Secondo me, dentro di te l'hai sempre voluto. Per esempio, quel gigantesco affare che ti migliora l'apparenza, non lo vuoi? Costa, sì. Ma se pensi a quanto costava solo 10 anni fa, è un affare. Io ne ho presi 2. Troppo utile. Vogliamo parlare di quel prodotto efficacissimo per la salute del tuo igiene del corpo e della mente, dermatologicamente testato, estremamente pratico e compatto al tempo stesso? Esco dal centro commerciale e mi sento bene. Non vedo l'ora di arrivare a casa e aprire tutti questi pacchi. Il mio stipendio utilizzato per rendere la mia vita più piena. Che soddisfazione. Devo postare sui social la mia grande soddisfazione. Grande soddisfazione. Online trovo sempre grande piacere. È tutto così veloce, non ho bisogno di fare code, non devo uscire, non devo per forza andare in quegli enormi centri commerciali pieni di gente, con l'aria condizionata che mi fa venire il mal di testa. Cerco, scelgo, pago, fin. È sicuro, mi garantiscono che i miei dati sono tutelati, mi arriva flash, il tizio sotto casa mi porta tutto. Cibo, drink, sigarette, vestiti, mobili, qualsiasi oggetto, un click ed è mio. Tutto è solo mio. Quel servizio che fanno vedere sempre in TV è veramente perfetto per me. Sembra che ne abbiano fatto la pubblicità solo per soddisfarmi. Lo consiglierò agli amici, anche perché se lo faccio mi danno uno sconto. Ce n'è un altro che mettono in coda la pubblicità, cioè che praticamente in pochi click diventi più ricco. Io mi sono abbonato ed è già tutto un altro mondo. 30%, 40%, saldi, sconti, abbonamenti, premium, plus, fidelity, socio, prime, discount. È tutto così conveniente, sono solo pochi euro al mese. Poco per tanto, più per meno, tanto a poco, ricco da povero, bello da brutto. Una meraviglia. Comprate, amici, comprate. È tutta roba utile. Io compro e non posso stare meglio. Compro e non soffro di solitudine. Pago a rate e non ho angoscia. Acquisto online e smetto di rimuginare. Sono una persona nuova, perché quello che è mio è solo mio. E con il mio sudato lavoro 6 giorni su 7, metapino, mi sono proprio guadagnato la proprietà. Ed è mia, solo mia. Amo Winnie's Natural, amo me stessa. Alleluia, alleluia, alleluia. Frisky, frisky, frisky. Vuole un'altra fetta? No, basta così. Che danno da sé, vediamo che. Dov'è danno. La guida TV? Consumatore ero, consumatore mi evolvo. Sono un consumatore, mi piace comprare, vero? Io compro tutto, spendo, compro e non mi annoio. Il resto del tempo lo riempio il mio dispositivo cinese a 7 pollici. Ho appena deciso che mi serve sta roba. Ho un grande desiderio di ottenere, di seguire, di ammirare. La dopamina mi rende attivo. Una volta! Come facevano? C'è una lucetta verde che spunta da lui. È l'ennesima dosetta. Una piccola, piccola dose. Qualcuno mi vuole ancora. Mi scrivono in tanti oggi, meno male, sembrava di essere sparito dal mondo. Ho bisogno di stimoli, costanti e interrotti. La lucetta è bianca, ora. Non so quale sia la notifica. E se fosse solo che è pieno di memoria? Ma sta suoneria? Lucette, vibrazioni. Sono trasportato da lucette e vibrazioni. regalo il mio tempo in cambio di lucette e vibrazioni. Ci sono, non ci sono, pubblico. Bit, bit, bit, bits, bits, papa, papa, swipe, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, Linking Bill, Linking News, Bill feed. News feed, EG, EG, EG, TV. EG TV, wipe, wipe, swipe, swipe. Pop up, Prime, Prime, Prime, Prime. Swipe up, swipe up, pop up, pop. Lol, lol, lol, lol, lol, lol, lol, lol, lol. Dice che se ho più followers posso avere più click. Sì, il mio analista è d'accordo. Tutti questi tempi morti erano così morti una volta. Erano tempi di horror vacui. Io non voglio l'horror vacui. Io voglio una vita piena. Life is now. Ah, aspetta, aspetta. Ho notifiche, ho notifiche. Una volta mi chiedo come facesse. Il tempo con lui. Ho messo la zuppetta di farro nel microonde. Quanto ci vorrà? 4 minuti? Aspetto l'autobus. Sono tra un posto di lavoro è un posto dove lavorare da casa. Sono in metro. Le fermate le conosco a memoria e non ho certo voglia di fissare questi cartelloni pubblicitari da boomer. Lo guardo. Mi esce la mano dalla tasca. È più forte di me. Se mi fermo a rifletterci, è tardi. Incontrollabile. Lo faccio e basta. Non c'è un motivo. Qualcosa decide per me. Una volta, chissà come si se la cavava. La password è sempre quella. Non la cambio, altrimenti la dimentico. Ero in sbattimento, poi ho pensato a lui ed è tutto un grande benessere. La vita è benessere. Quando c'è lui, il treno lo prende in orario. Ne sono dipendente, sono il suo impiegato. Lui mi fa fare le cose e io obbedisco. Sono un tossicodipendente. Sono un user. Lui ricorda per me, salva per me, guida per me, lavora per me, riempie il vuoto per me. Lui è al posto mio. Il mio oggetto cinese, dalla forma insospettabile, ha ribaltato i meccanismi tradizionali. Se prima ero io a scegliere, a muovere oggetti da un negozio alla mia abitazione, ora c'è lui che governa me trasformandomi in un suo oggetto, in un suo target. Nel mondo occidentale, dove il bisogno materiale è morto da decenni, per ovviare al problema e costruire una nuova forma di consumo, si è invertito il meccanismo dall'oggetto al fruitore, trasformando l'ex consumatore in un prodotto di massa. Una volta non so proprio come facesse. Thank you. Volevo fare una breve riflessione sulla cosa arrivati a questo punto. Intanto grazie che siete tutti qua. Io ringrazio principalmente Stefano Della Grotta, che è un mio carissimo amico che è entrato in questa cosa da poco, e gli voglio molto bene. E questa è un'altra storia. Grazie. Allora, il mio obiettivo stasera qui è aprire a qualche possibilità, magari semplicemente aprire un confronto, che è una cosa molto sana. Dunque, immagino abbiate colto una venata vela critica nei confronti del consumismo sfrenato. Ma non voglio focalizzare l'attenzione sul consumismo in sé, cosa che ci rappresenta da un secolo ormai, bensì sulla potenza che l'immagine commerciale ha ottenuto nei confronti della quotidianità e della cultura dei consumatori. Quanto tutto questo distragga la nostra mente, impedendoci di godere del contenuto della nostra vita. E quindi, ok, bene, sappiamo tutti, niente. Quindi, la riflessione è questa: la pubblicità diventa il contenuto, mano a mano, e ciò che era il contenuto si trasforma in uno spazio pubblicitario. La musica sembra sempre di più uno spot. Il cinema sembra sempre di più uno spot. I social network sono a tutti gli effetti degli spot antropomorfi. E lo spot sembra sempre di più una scena quotidiana. E quindi mi chiedo, È dunque la cultura un'interruzione di fine primo tempo? E se tutto stesse mutando lentamente, diventando il mondo che le pubblicità hanno per anni rappresentato? Che conseguenze ha questo? Vorrei ricordare che nel contesto l'evasione è un desiderio di realtà e che sforzarsi di non essere ingenui è diventata una prassi sofferta per coloro che non vogliono cadere in un fiume di pixel e plastica. E detto questo, vorrei smettere di citare cose che ho scritto io e citare cose di uno che ha scritto delle cose piuttosto interessanti, un signore che si chiama Gunther Anders, filosofo tedesco, che in un suo libro che si chiama L'uomo è antiquato, a pagina 101, scrive così. Mentre il lavoratore a domicilio di tipo classico aveva fabbricato prodotti per assicurarsi un minimo di beni di consumo e un minimo di svago, quello del giorno d'oggi consuma un massimo di prodotti di svago per cooperare alla produzione dell'uomo di massa. Il processo attinge poi il culmine della paradossalità per il fatto che il lavoratore a domicilio, invece di essere pagato per questa sua collaborazione, deve pagarla lui stesso, cioè deve pagare i mezzi di produzione, impiegando i quali si lascia trasformare in uomo di massa. Dunque paga per vendersi, deve comprare persino il suo asservimento, persino quell'asservimento a forgiare il quale egli collabora, dato che anch'esso è diventato merce. Ma anche se ci si rifiuta di compiere questo passo sconcertante, di vedere nel consumatore della merce di massa il collaboratore della produzione dell'uomo di massa, non si potrà negare che per foggiare il tipo oggi richiesto di uomo di massa non è più necessario l'effettivo ammassamento in forma di riunione di massa. Le osservazioni di Le Bon sulla situazione di massa che alterano l'uomo sono ormai antiquate, perché al giorno d'oggi si procede a domicilio alla degradazione dell'individualità e al livellamento della razionalità. Non c'è bisogno della strategia di massa nello stile di Hitler. Se si vuole ridurre l'uomo a uno zero, perfino a essere orgoglioso di esserlo, non occorre più affogarlo in maree di massa, non occorre più cementarlo in una costruzione massiccia fatta di masse. Non c'è modo migliore di togliere all'uomo la sua personalità, la sua forza di uomo, di quello che preserva apparentemente la libertà della personalità e il diritto all'individualità. Se il processo del conditioning ha luogo per ognuno separatamente, nella casa del singolo, in solitudine, nei milioni di solitudini, tanto migliore ne sarà la riuscita. Dato che si presenta come fan, dato che non fa sapere alla vittima che pretende da lei dei sacrifici, dato che le lascia l'illusione della sua vita privata, o almeno del suo ambiente privato, il trattamento è assolutamente discreto. Certamente il vecchio detto «casa propria non c'è oro che la paghi» è diventato di nuovo vero, per quanto in un senso del tutto nuovo. Perché la casa propria non vale oro soltanto per il proprietario che sorbisce la zuppa condizionante, ma per il proprietario della casa, per i cuochi, cioè, e per i fornitori che imbandiscono la zuppa, come fosse cibo fatto in casa. Questo era Gunther Anders nel 1956. Bene. Detto questo, l'ultima parte, l'ultimo step di questa storia, racconto, quello che volete che sia, si chiama movimento. È il movimento in generale, come, diciamo, non necessariamente come forma di libertà geografica, ma come forma di esperienza, come motivo di arricchimento, maggiore saggezza e consapevolezza. Movimento direzionale, corporale o intellettuale, contro la passività, contro il subire e verso l'agire. Ora, se interrompere questa scena è crudele, devo dire. Non lo farò. Vi presento un cortometraggio che ho fatto ormai più di un anno fa, che si chiama Movimento. Thank you. Bene, dunque. Siamo arrivati alla fine. Queste sono le immagini dove abitavo tempo fa, nella una provincia in Afghanistan, da qualche parte. Era una zona popolare molto, molto divertente. Di solito lì c'erano i fuochi d'artificio alle 8 di sera, proprio in quella strada lì. Siamo arrivati alla fine e mentre le ultime immagini scorrono qui, volevo chiudere il cerchio del discorso in maniera propositiva, senza lasciare a chi ascolta esclusivamente la critica. Propongo una brevissima ultima riflessione su cui riflettere, non so. E la cosa è questa. Ho pensato a questo. Quando e dove il denaro diventa il fine ultimo, accompagnatore e collega di tutti i valori, una sorta di maestro di vita, despota e condottiero sulle vie del consumo e della crescita, la mia personale reazione è la creazione, inteso come produrre, immaginare, inventare, comporre, osservare e poi mettere per iscritto. Far uscire invece che reprimere, sfogare invece che subire. Queste le mie e le vostre armi. Arriverà il giorno in cui probabilmente la nostra specie verrà costretta a spostare il mirino. Verrà, probabilmente, ma non sarà tra poco, non sarà quando lo vorremo noi e non arriverà senza farsi notare. La mia non è una soluzione di nessun tipo, è solo porre delle domande. È una proposta che si pone l'obiettivo di arricchire la qualità del nostro tempo, di puntare sulla comunità, di riproporre una rivalutazione del termine scelta, rivalutare ciò che consideriamo evidente, ovvio. Che cos'è l'ovvio? Sto dicendo cose ovvie. E quando il denaro dirige le intenzioni delle più grandi compagnie, più potenti di tutti i governi, il mondo fondamentalmente è bendato. Vede il male e non lo affronta. Lascia che una sola condizione mostri il cammino. Ci sarà un tempo, forse, in cui qualcosa di più vero si mostrerà e si scoprirà più potente dell'avarizia, avido di umanità. Ed è chiaro per me che poter mostrare ad un pubblico determinate logiche risulterebbe un lusso, ma per primo mi chiedo che cosa porto a casa da questa esperienza. Ho regalato qualcosa? Ho capito qualcosa? È davvero tutto un contenitore di cose già viste? E quindi, che cosa proporre? Come rimanere senza la bocca tutta amara? E io dico muovere. E penso a un grande potere che abbiamo sempre avuto. Quello della coesione, per esempio. Il solito e famoso l'unione fa la forza. Le singolarità, se tutte attive, non importa dove, bucano il muro. Penso al potere dell'informazione ricercata, del dubbio, del senso critico. Penso alla partecipazione e alla voglia di non essere solo spettatori. Non possiamo essere solo fruitori di ciò che ci accade, per di più affrontandolo con gli stessi mezzi della generazione prima della nostra. Solo fruire significa giudicare ed essere quindi abituati ad essere consumatori della vita. Il mondo muta sotto banco e noi rimaniamo indietro, cresciuti ed educati a vivere il mondo come era il secolo scorso, da chi lo ha vissuto il secolo scorso, mentre noi, per primi, il secolo scorso lo vediamo come fosse un millennio precedente. E per concludere, immagino tutti noi come dei maestri equilibristi, in costante bilico di intenti, tra un di qua e un di là di una riva. Immaginatevi questo pomposo fiume, un flusso di materiale che passa e scompare, con luci rapide, raffiche di input sonori e luminosi. C'è troppo movimento, non si capisce molto, ma sembra tutto eccessivamente attraente. E quindi combattere con l'idea, sfoderare il genio creativo, è ciò che forse ci lascia al di qua a soffrire, appena fuori da quello strano fiume, tanto appariscente, di cui poco sappiamo. Vi ringrazio moltissimo per essere venuti stasera. Lui è Stefano Della Grotta, io mi chiamo John De Martino, questo è Frame B e grazie mille di essere venuti. Grazie. Thank you.